Ora in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 3 febbraio. Questo 3 febbraio ha tre particolarità, perché tra l'altro ieri ho cominciato dicendo buon 2 gennaio e nessuno neanche mi ha corretto, ma comunque invece no, oggi è il 3 febbraio, e il 3 febbraio ha delle particolarità perché primo, lo so che voi dite San Biagio, in realtà è Sant'Oscar, anche il vescovo evangelizzatore dei danesi, cui corpo sta nella cattedrale di Copenaghen, e quindi è il mio santo. Ma al di là di questo, siccome stiamo leggendo in questi giorni del Capodanno cinese, l'anno del coniglio, abbiamo letto bene, c'è un grande popolo in Asia oltre ai cinesi, il vietnamiti, e oggi inizia l'anno vietnamita ed è l'anno del gatto, e quindi siccome è l'anno del gatto e del mio onomastico mi sembra ottimo ricordare questa cosa che devo, e lo dico con gratitudine al console onorario del Vietnam, che rappresentando molte imprese, lo scambio sta molto crescendo, un paese in grande dinamica crescita, mi ha ieri ricordato, ho detto beh, l'anno del gatto tutto sommato, perché rassegnarsi solo all'anno del coniglio. E quindi la terza particolarità è che oggi dedichiamo la puntata a un unico ospite, perché la vicenda di cui ci occupiamo oggi è una di quelle vicende estremamente rare, rarissime, tali per la loro rarità da doverci, a mia opinione, obbligare a una profonda riflessione. Ed è su questa vicenda che vi invito a telefonare sin d'ora, perché la trasmissione sarà un dialogo tra il nostro ospite e voi. A cosa è dedicata questa trasmissione? Alla vicenda che è avvenuta ieri nell'aula del Senato, dove questo paese, dove la tradizionale rappresentazione del politico, talvolta ingenerosa, ma insomma con molti punti di verità, e di persone che stanno molto ben attaccate alle poltrone e che pur di non rassegnarsi talvolta alle inevitabili successioni di rappresentanza eternano i loro ruoli inventandosi sempre nuove possibilità per farlo, invece per una volta, e in questo quadro di sfondo delle vicende del paese che da mesi interrogano profondissimamente tutti i cittadini sulla tenuta morale, lo stile, sulla perdita di credibilità che c'è da una parte ma c'è anche dall'altra, come sapete, come si vede nei sondaggi del resto, in cui è incredibile come a fronte di quello che avviene anche l'opposizione non faccia che perdere punti. Ecco, con tutte queste vicende sullo sfondo, un politico non di primo pelo, un intellettuale che gode di elevata stima, e lo sentiremo, vi proporremo anche delle dichiarazioni rese in aula, e cioè il senatore Nicola Rossi, economista, lo conoscete spesso, è venuto ai nostri microfoni per darci la sua opinione sulle questioni del mercato e della crescita economica. Il senatore Nicola Rossi ha chiesto che l'aula del Senato accettasse le sue dimissioni, e accettasse le sue dimissioni perché basta, perché non se la sente più, perché ora sentiremo da lui perché è ospite con noi e io molto lo ringrazio. Ma voi iniziate a pensarci, diteci che cosa, su cosa vi fa riflettere questo gesto di un politico che, senza fare troppe polemiche, senza voler esagerare, dice semplicemente: cari colleghi, fatemi questa cortesia, perché io penso di avere terminato il contributo, qui non ci voglio stare più, non ha molto senso che io resti qui. L'Aula del Senato le ha respinte queste dimissioni, è un gesto di cortesia, è un gesto di stima, ma quello che conta è che vorrei che voi rifletteste a casa, e rifletteste sulle parole che subito, adesso, lui inizierà a dirci, per illustrarci come e perché si può arrivare a questa determinazione e dire no, basta con questa politica. Allora è con noi il senatore Nicola Rossi, lo ringrazio, buongiorno, e gli cedo a questo punto la parola. Perché questa decisione, senatore? Buongiorno, innanzitutto auguri per l'onomastico, non sospettavo l'esistenza, la verità. Dunque, no, la decisione è molto semplice, c'è certamente come dire, un po' di stanchezza per quella che la politica è oggi, credo che abbia, diciamo, sia sotto gli occhi di tutti il fatto che la politica tenda a non svolgere più il suo ruolo sostanzialmente, ci si occupa di cose, come posso dire, diciamo minori, che mi è permesso, oppure si registra una vera e propria inanità della politica, diciamo, ad affrontare quelli che sono i problemi del paese, in un momento in cui il paese avrebbe bisogno di sperato invece di un'indicazione, di una visione, di scelte e cose di questo genere. Però non è solo un problema di stanchezza, non è un problema, come posso dire, personale. Io ho posto un problema politico e provo a spiegarlo, se posso, in questa maniera. Facciamo, supponiamo per un attimo che da qualche giorno nelle aule del Parlamento arrivi, faccio un esempio fra i tanti. Faccio un esempio fra i tanti, mi sa che è caduta la linea. Pronto? Ecco, c'è la linea, benissimo. Posso continuare? Un secondo solo, facciamo così, proviamo a ricollegarci, mentre intanto noi proponiamo ai nostri ascoltatori, c'è un file con un file che dura due minuti e qualche secondo, con come gli esponenti di altri partiti ieri in aula hanno reagito, hanno commentato e poi alla fine hanno anche votato sulla richiesta di emissioni del professor Nicola Rossi. Il nostro voto sarà un voto con il quale respingeremo le richieste di Nicola Rossi, del senatore Nicola Rossi. Le nostre sono ragioni di merito. Noi crediamo che Nicola Rossi, senatore della Repubblica, sia utile alle istituzioni, al suo gruppo, al Senato comunque. Riteniamo di compiere un gesto che probabilmente gli dispiacerà, ma che consentirà a lui di rimeditare la decisione che ha assunto, che apprezziamo nella sua linearità, così rara purtroppo nei comportamenti pubblici, ma riteniamo che il suo sia un errore e che il suo allontanarsi da quest'Aula e rinunciare alla carica di senatore non farebbe né migliore il Senato della Repubblica, né più interessanti e colti i nostri lavori, né più vicini alle esigenze dei cittadini il prodotto del nostro sforzo. Colleghi, noi riteniamo che queste dimissioni siano da respingere. Qui si fanno le leggi. Il Senato è la fabbrica delle leggi, la più alta espressione della delega democratica, e non esiste una fabbrica che rinuncia a uno dei suoi consulenti più esperti. Onestà intellettuale e indipendenza di giudizio sono dei caratteri che dovrebbero superare il disincanto che immagino il collega abbia verso il suo ruolo attuale. Questo senso di limitatezza dovuto alla convinzione di essere nominati invece che eletti, una cosa su cui dovremmo ragionare criticamente noi sempre, ma non per prendere la decisione di andarsene, per prendere piuttosto la decisione di esercitare le proprie indubbie capacità proprio per cambiare questo quadro che si considera critico. Lei ci mancherà in ciascuna di queste aule, professor Rossi. Da componente della bilancia ci mancherà soprattutto lì, per la sua straordinaria capacità di analisi economica e politica e per quella capacità che ella ha sempre avuto di anteporre l'interesse generale del futuro del Paese al presente di questo Paese. Io vi rimetto il mandato perché in questo momento mi chiedo quanto possa io rappresentare i miei elettori nel momento in cui vivo un dissenso politico. Questo è un tema di primaria importanza, di onestà politica, di civiltà politica, che si aggiungono ovviamente a quei caratteri di qualità professionale, scientifica e parlamentare che tutta l'Aula del Senato mi pare gli riconosca. Avete sentito nella successione di dichiarazioni che abbiamo sintetizzato e composto insieme, prima la capogruppo del PD, la senatrice Finocchiaro, poi il senatore Garavaglia per la Lega Nord, e il senatore Pancio Pardi per l'Italia dei Valori, poi la senatrice Bonfrisco del PDL e in conclusione Francesco Rutelli dell'API. Allora, diceva professor Nicola Rossi, la decisione Le attestazioni di stima che ho sentito ieri, che avete trasmesso oggi, sono fin troppo generose, diciamo. Ma torniamo all'esempio che volevo fare. Supponiamo che da qua a qualche settimana viene nelle aule del Parlamento una ipotesi di modifica dell'articolo 41 della Costituzione relativa, diciamo, alla libertà d'impresa. Allora, io sono personalmente convinto che onestamente i vincoli che le imprese trovano nel loro operare quotidiano non abbiano a che fare con il dettato costituzionale, detto con franchezza. Ciò nonostante, ritengo che se in Costituzione si scrivesse con chiarezza che, per esempio, diciamo, tutta l'attività burocratica deve essere tesa ad un controllo successivo, non invece ad un controllo preventivo delle attività dei cittadini, io credo che sarebbe, diciamo, una cosa positiva ad un passo avanti. Detto questo, come potrei io a un certo punto quel giorno esprimere la mia valutazione positiva per una modifica costituzionale di quel tipo se il partito al cui gruppo io appartengo scegliesse invece di avere un atteggiamento contrario? Naturalmente potrei farlo solo se fossi legittimato a esprimere la mia opinione in totale libertà di giudizio. Questa legge elettorale non mi dà questa possibilità. Io non sono in grado di tornare nel mio collegio, parlare con i miei elettori e spiegare loro perché io potrei prendere una decisione di questo genere. E non potendolo fare, mi sento visibilmente, diciamo, non legittimato. Questo è un tema sul quale non riflettiamo poco, secondo me, ma legittimazione popolare e indipendenza del giudizio sono due cose estremamente legate. E questa legge elettorale limita molto, da questo punto di vista, la funzionalità del Parlamento e la capacità e le modalità con cui i parlamentari esercitano il loro ruolo. Un'ultima cosa, tutto questo in tempi normali non è un problema, ma questi tempi normali non sono, e ci potremmo trovare davanti dei provvedimenti di grande serietà che dovrebbero essere valutati esclusivamente nell'interesse collettivo e non nell'interesse di parte. Questo io credo che sia molto difficile farlo. La polemica esplicita è naturalmente, oltre che sui tempi, come avete sentito, sui criteri anche di questa rappresentanza, su questa legge elettorale che da una parte esalta solo la scelta di chi compone le liste, dall'altra svuota poi quella tutela costituzionale che è l'assenza di vincolo di mandato, perché poi alla fine a chi si risponde? Da questo punto di vista, il Parlamento al quale ha partecipato nelle sue ultime legislature, lei come l'ha visto cambiare? Non le chiedo giudizi personali sui colleghi, ma sotto questo profilo, questo tipo di rappresentanza, che cosa produce? A me piace sempre valutare le cose dai risultati e anche, diciamo, le istituzioni dai risultati che producono. La mia personalissima valutazione è che la qualità della produzione legislativa sia cambiata in peggio in misura molto significativa negli ultimi anni, e questo è accaduto perché il Parlamento è stato svuotato in larga misura, diciamo, del suo ruolo e delle sue funzioni, perché ormai le leggi vengono scritte altrove, arrivano blindate in Parlamento, il Parlamento non le modifica, a volte anche, come dire, se si tratta di intervenire su errori di ortografia, esagero volutamente, è giusto per dare l'idea. Il risultato è che il cittadino si trova davanti un corpus normativo di difficile interpretazione, di difficile lettura, spesso e volentieri di difficilissima applicabilità. E infatti lo abbiamo detto più volte, siamo oramai prigionieri di norme scritte dai consiglieri di gabinetto e dalla casta, insomma dalla tipologia dei produttori di norme sono magistrati amministrativi dissaccati incordata presso i gabinetti dei politici o dei sottosegretari, più che i parlamentari. C'è poi, oltre a questa questione, diciamo, dei tempi, dei vincoli della rappresentanza, c'è anche una questione che riguarda naturalmente l'agibilità nel poter svolgere un ruolo critico nella propria parte, perché poi lei era nel PD e su questo tutti questi limiti come influiscono, come limitano. L'esempio che facevo prima, diciamo, implicitamente parla anche di questo, cioè io ieri ho sentito esponenti anche autorevoli del PD dire ma questa storia dell'articolo 31 non ha nessun senso, a nessuno gliene importa niente, quindi è inutile. E questo è il punto. Io non credo che sia inutile, credo che affermare determinati principi sia invece possa essere molto rilevante. È evidente che non cambierà di una virgola la difficoltà con cui si può fare impresa in questo Paese il giorno dopo una modifica dell'articolo 41, ma per come io leggo, diciamo, anche il ruolo di parlamentare, questo non significa che uno si debba schierare contro, questo significa che si può votare tranquillamente a favore di una modifica sensata dell'articolo 41, fermo restando che poi bisogna bisogna fare tutto il resto, se no parliamo solo di chiacchiere. Ora iniziamo a sentire qualche ascoltatore per vedere come la pensa. C'è Virgilio che ci chiama dalla provincia di Ravenna. Prego Virgilio. Buongiorno signor Oscar, a lei e ai suoi ospiti. Sì. Guardi, io sono un po' critico sulla nostra classe politica quando bisogna criticarla, ma nel caso del signor Rossi ha tutto il mio applauso e il mio sostegno, e spiego il motivo. Guardi, a sentire le interviste di certi parlamentari, non attaccano una A con una O, livello culturale zero, gli aggettivi e i congiuntivi non ne parliamo, cambiano schieramento dalla mattina alla sera 5-6 volte in una legislatura, e poi, citando Guzzanti, duggici in fondo le mignottocrazie, a un certo punto quando la misura è colma, un po' di orgoglio personale è da applaudire, signor Rossi. Grazie, buona giornata. Anche perché adesso, non per dire, ma con tutti questi difetti il professor Nicola Rossi non ha niente a che vedere. Adesso esagero, ma neanche, come si dice la mia teoria. Sentiamo come la pensa Francesco, che ci chiama dalla provincia di Foggia. Prego Francesco. Salve, buongiorno. Guarda, io sono rimasto un po' perplesso rispetto alle motivazioni del senatore Rossi. Perché? Perché nel momento in cui lei ci invitava a riflettere, quindi immaginavo che fosse una rivolta morale, cioè basta con questo modo di fare politica, con questi politici così, diciamo che dal punto di vista di nostro dei cittadini ce ne hanno un'immagine negativa, cioè di persone che rispetto all'etica politica li vedi così costretti al vedere il film, a vedere il video porno durante le votazioni, oppure tutto quello che sentiamo nei telegiornali. Poi invece le motivazioni sono tecniche, cioè a un certo punto sembra che il senatore non rappresenti più il suo elettorato, e immaginavo che i cambiamenti tecnici vanno fatti all'interno del Parlamento, non da fuori. Ecco, questo non capisco le motivazioni. Osservazione che chiede di spiegare meglio. La mia opinione è che quando c'è una legge elettorale, poi la questione di fondo è come si fa la rappresentanza politica, che è uno dei temi su cui torniamo sistematicamente, non solo per la rappresentanza politica, ma per le crisi generali che c'è nella rappresentanza del nostro paese. La mia opinione è che la legge elettorale, che in realtà viene denunciata dai partiti e poi fa comodo ai capi partiti, è una grande questione, perché poi si arriva a quello che si vede nella politica sotto gli occhi. Ma questa è la mia opinione. Sentiremo come risponde a Francesco dalla provincia di Foggia il professor Nicola Rossi. Sentiamo ancora un terzo ascoltatore e poi gli ridiamo la parola. Enzo, che ci chiama da Carbonia. Prego Enzo. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Il discorso dell'onorevole senatore Rossi, che io considero una persona intellettualmente capace, secondo me nasce da un altro aspetto, che è quello che i cittadini italiani continuano a chiedere oramai da anni. Stare tanto tempo in Parlamento, dopo che tu ci stai 5, 10, massimo 15 anni, non ha più senso starci, prima di tutto perché hai perso quell'entusiasmo, quella voglia di... E poi diventa una routine, una cosa... Il politico massimo ci deve stare 10-15 anni, ed è quello il male di questo paese. Ci vuole un ricambio completo. Ora, il senatore Rossi ha deciso autonomamente di andarsene via, però dovrebbe la politica decidere di fare questa legge, e massimo 2 mandati, eccezionalmente 3, poi devi andare a fare il lavoro che facevi prima. Questo è quello che deve succedere in questo paese, se no, signori belli, non cambierà mai niente. Allora, qui abbiamo 3 ascoltatori, di cui uno applaude, un secondo dice ma mica ho capito tanto, perché non ve le risolvete tecnicamente queste cose, e un terzo che dice ma qui c'è un problema alla politica, il limite dei mandati. Cominciamo a rispondere forse al secondo osservatore, quello che diceva... Direi di sì. Allora, cominciamo dal secondo ascoltatore. Io credo che sarebbe facilissimo, naturalmente, diciamo, prendere una decisione come quella presa segnalare, diciamo, il discredito in cui la politica è caduta, i comportamenti, sottolineare che la scorsa settimana bastava aprire i giornali per notare come posso dire, la carriera parlamentare aveva assunto contorni non esattamente commendevoli, e così via. E sarebbe molto facile. La mia sensazione è che invece noi tutti, sia chi esercita il mandato parlamentare, sia i cittadini, devono sempre tenere in mente una cosa, cioè screditare le istituzioni poi è una cosa che si ritorce contro il tutti. alla fine non serve a nessuno e reca molto danno. Quindi io no, la mia intenzione non è affatto quella di screditare la politica. Io segnalo che le regole che la politica si è data sono tali da ingenerare i fenomeni per cui noi oggi guardiamo alla politica con molta disillusione. Con... Pubblicità, riprendiamo perché i collegamenti da dove ci sta chiamando ogni tanto cascano quando cambia di cellula. Eccoci, tornati in studio e prima di tornare a dare la parola al professor Rossi, sentiamo una testimonianza sulla quale vi invito a riflettere perché ci ha colpito ieri sentendo l'aula del Senato mentre parlava Rutelli. E sentiamo un secondo questo pezzo di audio e poi vediamo quali considerazioni ci induce. È evidente che questo capita. Pre Gardieri. Dobbiamo ascoltare. Se è un'interruzione lei. Io l'accetto, No, no, ma non è, magari fosse un'interruzione. No, è un chiacchiericcio collaterale che disturba. No, se è un'interruzione l'accetto volentieri, naturalmente. Allora, questo per dire niente di che, ma insomma stiamo parlando di ciò che naturalmente sui giornali i cittadini non vedono. Poi il Parlamento è fatto poi di vita quotidiana, di noia, di cose, di chiacchiericcio, eccetera, eccetera. Il Parlamento è un'idea nella testa dei cittadini e poi visto da dentro, lo dico anch'io perché per mestiere per anni ci ho dovuto lavorare, è qualcosa di molto diverso, molto diverso da come la gente lo vede fuori e da come chi vi opera lo pratica dentro. È molto difficile di solito che le due immagini, la stima, la considerazione esterna e la maniera di percepirlo che chi vi opera dentro combacino. Avviene in epoche molto ristrette. Di solito quello che avviene è che c'è una distanza molto secca e poi ci sono dei periodi in cui questa distanza diventa tragicamente quasi incolmabile. A dire la verità, il periodo, secondo me, che noi viviamo da qualche anno a questa parte, cioè il periodo in cui esplode il contrasto tra l'impoliticità assoluta di questo leader che è Berlusconi, l'impoliticità è fuori dalle regole, fuori dagli stili, è fuori dal comporre tradizionalmente gli scontri con gli altri poteri e ordini dello Stato, e invece lui li affronta, li alimenta e ne fa una questione identitaria della propria maniera di svolgere la propria politica. Ecco, tutto questo da una parte dovrebbe accentuare poiché si tratta di tecniche elementari antipolitiche di consenso personale che ricorrentemente sono nella storia, che la storia è fatta di fasi in cui il parlamentarismo incardina il consenso e la forza dei partiti e di fasi nelle quali invece poi c'è una reazione, nella storia italiana c'è una reazione che viene con antipolitica, antiparlamentarismo molto forte. E così da quando si è fatta l'Italia è sempre stato l'antiparlamentarismo uno dei refren attraverso i quali mandare a casa chi esercitava un potere consolidato e chi aveva in mano classi dirigenti, elite e così via. Da questo punto di vista Berlusconi aggiorna i metodi, li aggiorna molto, viviamo nel mondo della comunicazione assoluta eccetera eccetera, ma sbagliate a credere, questo io l'ho sempre ripetuto, sbagliate a credere che non sia una costante di questo paese, purtroppo non di storia recente e ancora non consolidato sul meccanismo di selezione e rappresentanza delle classi dirigenti e quindi va avanti a scossoni. Questo è il passaggio poi tra la destra storica e il trasformismo, la critica durissima, tutta morale a Giolitti, a mia opinione ciò che di meglio ha avuto l'Italia in 150 anni e che pure diventa nella testa degli intellettuali radicali democratici il ministro della malavita e così via, e poi arriverà il fascismo e dopo il fascismo la lunga fase di consenso ai partiti, dopo salta il tappo e ci risiamo. E da questo punto di vista mi dispiace dirlo, ma il giustizialismo di un segno e il personalismo plebiscitario dell'altro sono due classici filoni dell'antiparlamentarismo e dell'antipolitica italiana. Da questo punto di vista il viva i magistrati e Mani pulite non è che una lettura con strumenti diversi che ha la stessa carica effettuale sulla politica e la rappresentanza. Ora, questa è la mia piccola conferenziella per dire che poi stiamo parlando di un tema, perché molti dicono, ma ci sembrano dimissioni di uno che si è stancato. No, neanche per idea. Sono dimissioni che mettono all'ordine del giorno tutto questo e dicono, ci volete pensare? Se non ci volete pensare, io non so più cosa dirvi. Tra i tanti messaggi, professor Rossi, ridando la parola, Alcuni le chiedono, ma quando poi l'aula respinge, come è avvenuto ieri, che succede? Lei a quel punto cosa fa di fronte al fatto che l'aula le dice no, tu non te ne vai a casa e non ti sostituiamo? No, quando l'aula respinge è chiaro che la parola torna al senatore, che deve decidere se confermare o meno la propria decisione. Ora, qui non è tanto una questione che non è mai bello dire come va a finire una storia prima, è semplicemente che credo che la prima persona che debba sapere se quando confermo la mia decisione di dimettermi, credo che debba essere il Presidente del Senato. Quindi abbiate un po' di pazienza. No, basta, no, era solo perché la tecnicalità è ignota ai nostri ascoltatori. Allora, quando è caduta la linea, cosa stavamo dicendo? Sì. No, quando è caduta la linea, io stavo cercando di dire che il problema non è affatto, l'ha detto lei benissimo, il problema non è affatto un problema tecnico. Le modalità con cui noi legittimiamo i nostri rappresentanti popolari hanno a che fare con l'idea stessa che abbiamo della democrazia e con l'idea che abbiamo del rapporto fra cittadino e istituzione. È una maniera leggermente diversa di dire esattamente quello che lei ha detto prima. Io credo che a questo punto non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo, ma posso dirle, non dovrebbero sottovalutarlo nemmeno coloro i quali hanno inventato questa legge elettorale veramente priva di senso comune, perché pensare di poter conquistare e controllare il consenso nominando i propri rappresentanti è veramente illusorio, perché un rappresentante nominato, guardi, ci mette un secondo a trovare un altro che lo nomina oggi o che lo può nominare domani. È veramente illusorio ed è quello che sta accadendo, è esattamente quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Quando l'ascoltatore segnalava, come dire, il fenomeno del passaggio di campo ripetuto che abbiamo avuto anche in misura significativa nelle ultime settimane, in realtà dimentica che è proprio lì il punto. Quella cosa può accadere perché alcuni parlamentari possono tranquillamente tornare nelle aree in cui sono elette e non hanno i cittadini che gli dicono ma scusi, ma lei come si permette? Perché lo fa? Quantomeno perché lo fa? Io ricordo il mio primo mandato parlamentare nel 2001, io sono stato eletto nel 2001 in un collegio uninominale, io avevo ogni settimana i miei elettori che mi chiedevano conto delle mie scelte, delle mie decisioni, non era solo un domandarmi favori o altro, era anche un chiedere conto delle scelte e delle decisioni. Io credo che se tornassimo ad avere qualche cosa di simile ci guadagneremo tutti. Ora sentiamo ancora altri ascoltatori, cominciando da Giacinto che chiama da Bari. Prego Giacinto. Buongiorno, saluti a lei e al professor Rossi. Io brevemente volevo esortare il professor Rossi a ripensarci, a ritirare le sue dimissioni, non perché io sia un simpatizzante della sua parte politica, ma perché, tornando alle radici, al senso del suo mandato, lui è un rappresentante del popolo, non del partito, anche se il partito lo ha designato, lo ha fatto in maniera impropria, quindi questo fatto travalica tutte le altre considerazioni e quindi non vedo perché lui si debba sentire così a disagio nell'esprimere opinioni e voti differenti dalle direttive del partito. Tutto qui. Grazie Giacinto. Sentiamo Raniero che chiama dalla provincia di Rimini. Prego Raniero. Buongiorno, grazie Oscar. Alcune considerazioni in merito alla rappresentanza politica che comunque dibattete questa mattina sulla radio. Vede, parto dal lontano 93, la cosiddetta, quando no, si iniziò a parlare della Seconda Repubblica, e con la riduzione del potere politico dei partiti o l'eliminazione dei partiti in generale, insomma, no? Il discorso di mani politiche. Ecco, come no. Ero consigliere comunale all'epoca socialista, sono consigliere comunale tuttora socialista perché non ho mai cambiato bandiera e sono sempre rimasto orgoglioso dei miei ideali. Sono il primo degli eletti in un consiglio comunale di tutte le rappresentanze della maggioranza e dell'opposizione. Allora, io dico, i partiti, essendo stati ridotti come sono ridotti, che non hanno più valore, non rappresentano più niente, nel loro interno non discutono, non fanno scelte delle classi dirigenti e via, ci troviamo solo a queste situazioni, cioè a persone che comunque giustamente con la legge elettorale che c'era presentano poi loro stessi, perché non vengono eletti ma vengono nominati a livello nazionale. Questo secondo me è un dato che va tenuto conto e andrebbe riformato, perlomeno aggiungendo comunque una preferenza, perché ritengo che chi governa una nazione deve avere un mandato da parte dei cittadini. Io sono vicino al PDL, però su questa questione debbono avere il coraggio di fare una riforma come elettorale, come va fatta. Grazie Raniero. Io devo dire che questo tema dei partiti è un tema fondamentale, perché io spesso sento i giudizi unilaterali che riguardano la natura antipartitica di quello che dichiaratamente non è mai stato un partito e ha sempre dichiarato di non volerlo essere, cioè il PDL, cioè l'ex Forza Italia. Quello dalla definizione non nasce come partito e vuole rimanere movimento. Non lo sto difendendo, sto difendendo lì il fatto che è esplicito il fatto, comanda il capo, punto. Non sto dicendo che mi piace, sto dicendo che limitare la critica al sistema dei partiti, quindi al fatto che non ci siano congressi, rappresentanza, agibilità dentro, eccetera, eccetera, a questo aspetto della vita italiana, mi è sempre sembrato un grande difetto del fatto che si tenta di scardinare l'avversario attraverso accuse istituzionali e accuse di tipo sistemico, senza vedere che in realtà siete tutto accomunati nella condizione. Vi faccio una domanda: l'Italia dei Valori di Di Pietro è un partito con piena agibilità e come si vede dove si decide ai congressi, o è un partito dove c'è il principio comanda capo? Io ho la netta risposta e non voglio urtare la sensibilità di nessuno degli elettori dell'Italia dei Valori, e se quadri, dirigenti e parlamentari. Fino a questo momento abbiamo visto che è un partito dove comanda il capo. Il PD, che è la questione più importante poi per certi versi, perché è il coagulo delle tradizioni del centro-sinistra italiana, ci sta offrendo spettacoli, ci siamo occupati delle primarie a Napoli, che riesce a risolvere il problema della rappresentanza dal basso rispetto all'indicazione carismatica dei capi corrente dall'alto? Non lo ha fatto nel nord, non ha dato retta a chi come Cacciari e Chiamparino credeva un'articolazione territoriale del partito, non ci riesce con le primarie. Quindi il problema del partito non è un partito che riguarda solo il non partito per definizione, che cortocircuita tutti gli altri, cioè Forza Italia. Sentiamo ancora Maurizio che chiama da Milano. Prego Maurizio. Buongiorno Giannino e complimenti a tutti voi per le trasmissioni che sono sempre interessantissime. Eccoci. E lei in particolare. Senta, allora, qui la matassa è complicata. Lei credo che sia anche un bel pragmatico, e anch'io nel mio lavoro, quando c'ho problemi grossi, cerco di farli piccolini e iniziare a risolverli. Allora, se noi eleggiamo i nostri rappresentanti come prima, si ha la responsabilità di chi va in Parlamento, e la difficoltà che questo costa molto, perché per farsi eleggere bisogna spendere dei soldi. L'abbiamo evitato, sembrava una buona idea. Adesso si elegge il partito e poi il partito elegge, nomina il rappresentante, si risparmiano un sacco di soldi probabilmente, ma la persona in Parlamento non è in effetti veramente rappresentata da chi li ha eletti. Bene, da che parte si comincia? Ma forse una via di mezzo per ridurre i problemi ci sarebbe, cioè ridurre il numero dei parlamentari. In Italia siamo 60 milioni, abbiamo 1000 parlamentari, negli Stati Uniti sono 300 milioni, 350, e hanno 300 parlamentari e governano. Allora forse riducendo il numero dei parlamentari, cosa promessa spesso e mai mantenuta, e chi lo facesse magari un po' di fiducia la potrebbe prendere anche dal popolo italiano in possibili prossime elezioni. Ecco, magari in quel modo lì si può tornare a eleggere le persone con un costo inferiore, perché ne devi leggere 300 non 1000. Benissimo, ora abbiamo rapidamente le informazioni sulla circolazione stradale e poi facciamo rispondere a tutti dal professor Rossi. Eccoci tornati in studio, abbiamo approfittato delle dimissioni chieste, ha chiesto la ratifica del voto all'Aula del Senato il professor Nicola Rossi, per riflettere insieme a lui sulle ragioni che lo hanno indotto a farlo, il problema della rappresentanza, questa legge elettorale, i partiti, come faccio con queste modalità a rendere conto dei miei dissensi o comunque dell'articolazione personale delle mie opinioni, che sono quelle che conosciamo, di un economista che ha una visione del mercato e di come si fa i riformisti ancorati a una tradizione di sinistra, ma ben immersi nel mondo con cui bisogna confrontarsi, e questi sono i temi. Sentiamo ancora Gabriella da Roma. Gabriella, che ci dice? Buongiorno, io sono appunto, vivo a Roma come lei ha detto, E sono una donna di una certa età, 68 anni, sono un'insegnante in pensione, quindi insomma questo è il mio target, come si dice. Io sono rimasta un po' colpita dalle cose che sono state dette e le domande che io faccio, adesso non so quanto siano, se sia possibile farle in un breve tempo, il discorso sulla legge elettorale per esempio. Io della legge elettorale in realtà, ecco, si potesse avere una trasmissione nella quale mi si possano chiarire i pregi e i difetti di quella precedente e i pregi e i difetti di quella attuale. E ricordo, se non ricordo male, che per esempio veniva detto quanto nel metodo precedente la campagna elettorale personale che faceva una persona e che quindi doveva avere i soldi per poterlo fare, quindi c'era tutto un sottobosco che non si Gabriella, però quando lei dice precedente intende la proporzionale della prima repubblica, non intende, sì, il Mattarellum della prima fase. Guardi, del maggioritario non le so neanche rispondere. Ecco, non si ricorda neanche con quale legge elettorale. Ma non lo dico per critica, è per capirci, perché sennò forse questa domanda che lei mi fa fa vedere anche, posso essere considerata una persona media, insomma, tutto sommato, ecco, forse tutti anche questi passaggi si perdono, poi lei dice, si perdono. Nello stesso tempo però volevo anche fare notare come, forse, da un lato uno pensava di avere un'idea del Parlamento un po' così, quasi forse romantica, dove le persone poi votavano, quando prima il senatore diceva, se io trovo una legge che trovo per me valida, non la posso votare perché il gruppo che mi ha presentato ha un'altra idea e io avevo idea invece che magari, certo, davanti alla legge che veniva ritenuta valida si potesse votare. Ma le dico un'ultima cosa, noi che viviamo nelle grandi città, ecco qui, come io sono a Roma, come l'abbiamo detto, noi i candidati, anche quando vado a votare quelle amministrative dove ho la possibilità di scegliere, io non li conosco. Creda, questa conoscenza diretta, secondo me, è valida, c'è ed è una possibilità per i centri fino ad un certo livello. Da un livello in più di grandezza, io i candidati non li conosco proprio, certe volte li vado a scegliere. Non so neanche, potrei sorteggiarli perché non li conosco. Io il sindaco l'ho visto fisicamente presente, ma non diretta, su un palco in un teatro. È l'unica volta in cui l'ho visto dal vivo e non era una figura virtuale. E infatti, però, dell'intervento di Gabriella mi colpisce e metto a verbale, per così dire, oltre a tutto quello che ha detto, che appunto in realtà gli strumenti tecnici della rappresentanza, sì, la gente più o meno li ha chiari, ma il più poi si perde i particolari veri, cioè in che cosa il collegio uninominale del Mattarellum era profondamente diverso, quello che rimpiangeva il professor Rossi prima, profondamente diverso rispetto alle liste bloccate. Secondo me dovessimo chiederlo davvero, quasi nessuno ci saprebbe rispondere. Giuseppe da Messina e poi andiamo da Rossi. Giuseppe, prego. Giannino, complimenti a lei e al signor Rossi. Volevo muovere subito un plauso per l'iniziativa presa, perché capisco quanto coraggio ci voglia anche a fare una provocazione del genere. E poi vorrei dire, cioè, sento parlare sempre di leggi elettorali, di quanto sia sbagliato, di quanto tutto questo sia sbagliato, però lei non crede che questa legge elettorale sia anche il frutto di un modo di fare politica italiano che si è spostato più sulla tifoseria che sulla scelta obiettiva del candidato? Cioè stiamo sempre a sentire due campane, a seguirle qualsiasi cosa esse dicano, senza il minimo pensiero critico, e ci si trova contro, non c'è una posizione intermedia, non c'è. Giuseppe, io su questo sa che mi cimmolo ogni giorno inimicandomi una parte dell'ascoltatore dicendo che sono alieno e credo che sia una crisi profonda della società civile italiana, non meno di quella politica, l'essere divisi curva nord e curva sud, perché ogni problema diventa da una parte Berlusconi e dall'altra comunista, questo non c'è dubbio. Detto questo, la particolarità che mi rende a me odiosa questa legge elettorale attuale, cioè le liste bloccate, non il premio di maggioranza, perché molti la criticano perché dicono queste liste bloccate poi vogliono smontare tutto il maggioritario e tornare al proporzionale, tutto il terzo polo fa così, buona parte della sinistra pensa questo perché dice così ci leviamo una volta per tutte dall'Italia qualcuno che vince il governo e davvero fa il governo forte, perché l'Italia non se lo può permettere, perché vedete gli italiani che si consegnano a Berlusconi. C'è una parte molto forte dei giornali, dell'accademia, della politica, che dopo 16 anni, e dopo 16 anni in cui Berlusconi tutte le volte che lo avete buttato giù è risalito su come Ercolino sempre in piedi, la pensa così. Io non sono di quelli, perché io non voglio tornare all'iperproporzionale, non ci credo affatto che questo sia stato il fallimento del maggioritario, questo è un maggioritario che non è stato messo in condizione di camminare perché è rimasto con condizioni per accesso ai soldi, che sono la cosa fondamentale tanto per cambiare della politica, che sono rimasti iperproporzionali, perché basta avere meno dell'1% alle politiche come alle europee, come alle regionali eccetera eccetera, per avere accesso alle tre diversi imbuti e tante volte abbiamo parlato di quanti soldi sono, e quindi se io do l'accesso ai soldi iperproporzionali rimetto al maggioritario una mina iperproporzionale, che è quella che spiega perché poi c'è la moltiplicazione dei gruppi parlamentari, la transumanza, perché diventa il parlamentare che ti dà il voto marginale necessario su una questione, diventa quello che si può proporzionalmente insieme ad altri tre o quattro ambire ed avere il rimborso elettorale, e ce l'ha. Questa è la mia opinione. Detto tutto questo, però, l'orrore di questa legge elettorale, liste bloccate, ha a che vedere con la crisi dei partiti, non con quella delle tifoserie dei due campi contrapposti, perché è la ragione per cui i segretari dei partiti gli va bene così questa bella storia, perché così poi alla fine si dividono per correnti in blocco, quando non c'è solo un leader in un partito si mettono i propri, buonanotte ai suonatori, e quindi questo ha a che vedere secondo me con una cosa diversa, non col tifo delle tifoserie. Allora, professor Rossi, qui c'è una bella batteria di osservazioni, scelga lei come e chi a chi rispondere. Andrea Ritroso, dunque, la confusione della signora sulle leggi elettorali è perfettamente comprensibile, perché fra le tante stranezze di questo paese c'è anche il fatto che noi votiamo con una legge elettorale diversa a seconda di chi eleggiamo: il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, il parlamentare e così via. Sono cose veramente insensate, in larga misura originate dal fatto che soprattutto negli ultimi tempi le leggi elettorali si fanno o si sono cominciate anche a fare perché conveniva cambiarle alla maggioranza di turno. Questo purtroppo è accaduto nel 2006 e questo è fonte, io credo, veramente di problemi molto seri. Non voglio farne una questione appunto solo ed esclusivamente di carattere etico, e cioè non si cambiano le regole del gioco in questa maniera. Dico semplicemente che in questa maniera viene fuori una Babele in cui i cittadini non capiscono, non si sentono rappresentati e non rappresentano, per così dire. Sulla riduzione del numero dei parlamentari, con me sono andato una porta aperta, diciamo, qualunque numero inferiore a quello che c'è oggi va benissimo, si tratta solo, diciamo, di affrontare il problema, ma per quanto mi riguarda il problema proprio non esiste. Infine io vorrei rispondere un attimo all'ascoltatore, credo fosse il Bari, che toccava il rapporto fra il parlamentare e il partito, in particolare fra me e il mio gruppo di parlamentari di provenienza. Allora, questa è una questione seria, io penso che il dissenso sia fisiologico quando è circoscritto. Io posso dissentire una volta, due volte, tre volte, ed è normale, e anzi costituisce il dissenso il sale della vita interna di un partito, perché sennò non si discuterebbe mai. Cosa diversa invece è pensare, come purtroppo io penso, che in buona misura il Partito Democratico sia oggi responsabile, sarebbe più giusto dire corresponsabile, dell'immobilismo che caratterizza il quadro politico italiano oggi. Noi oggi avvertiamo tutti, il Paese avverte nella sua interezza la necessità di cambiamenti, la necessità di una classe politica diversa, la necessità, come dire, insomma, che ci si dia anche un'immagine per certi versi diversa e così via. Il fatto che questo non accade non dipende solo dalle resistenze, diciamo, che si frappongono, ma dipende anche dal fatto che non c'è un'alternativa. E dal punto di vista dell'opposizione io considero questo un peccato capitale, perché lo scopo fondamentale dell'opposizione è quello di proporre una visione diversa del paese, in grado di prendere, di raccogliere, diciamo, il mandato popolare nel momento in cui questo cessasse di essere un mandato verso la maggioranza. Questo non sta accadendo. In questo senso sono io d'accordo, sì. Sono d'accordo. Avverto, diciamo, una responsabilità enorme. Ecco, e forse questa è la maniera migliore, visto che il tempo è concluso, perché ricordiate il senso di questo gesto del senatore Nicola Rossi e lo ringraziate, perché secondo me gli dobbiamo tutti qualche cosa. E una risposta bellissima che do a tutti coloro che hanno detto: ah, stai sviando il problema, Giannino, sei il solito pezzo di servo di perché stai parlando del problema della legge elettorale che non è la priorità è liberarci del tiranno. Benissimo, se ve ne liberate per l'ennesima volta con un'inchiesta giudiziaria, torneremo esattamente a questo punto. Questa è la mia banale opinione, se non vi va bene, fino a che pro tempore, io comunque darò spazio a tutti. Ma grazie al professor Nicola Rossi, la cui coscienza, comunque la pensiate sulla sua parte politica PD e sulle sue opinioni, è una coscienza che ci richiama a un problema di fondo del paese. E buon capodanno del gatto vietnamita a tutti quanti. A domani, un saluto nella Giornale Radio.